I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Vi parlo da un paese in coprifuoco, vi parlo da Codogno, uno dei comuni della Lodigiano, centro del contagio italiano da coronavirus, qui nel centro storico. È stata evidente da subito dopo la diffusione della notizia del primo contagiato da coronavirus, è stata evidente fin da quel venerdì, quando siamo andati a Codogno e piano piano abbiamo visto chiudere negozi, ristoranti e poi anche le chiese. È stata evidente da subito quella barriera che iniziava a circondare questa cittadina del Lodigiano, evidente e palpabile, ancor prima di diventare concreta, con le ordinanze che disponevano l'isolamento per tutta un'area abitata da 50.000 persone. Era la barriera più atavica e insormontabile di tutte, quella della paura, una forza così potente che non a caso per gli antichi era una divinità, ma una forza anche da provare a gestire per non lasciarsi travolgere da danni ancor peggiori. Un dio, ecco cos'era per gli antichi la paura, una divinità di cui si deve aver rispetto, riverenza, timore e tremore, ammoniva Paolo di Tarso. Ares, massacratore, marcia alla guerra e lo segue suo figlio Phobos, intrepido e forte, che incute paura persino al guerriero più impavido. I versi dell'Iliade ci riportano alla personificazione stessa della fobia, del nostro terrore. Un'iscrizione votiva di Selinunte del V secolo a.C., ricorda Vito Mancuso sulle colonne di Repubblica, Phobos è posto subito dopo Zeus e prima di tutti gli altri dei, mentre nella bellicosa Sparta vi era persino un tempio per il dio della paura. E in questo tempio dedicato alla paura è passata gran parte dell'Italia nei giorni dell'incertezza, come nessuna delle ultime generazioni aveva forse mai davvero provato in questa misura. I giorni dei bollettini continui del contagio, delle chiusure sempre maggiori, ma c'è stato anche chi sulle paure ha soffiato in modo irresponsabile e di questo ora dovrà rispondere. Entro domani decidono se tra lunedì e martedì attivano la quarantena anche per Milano, quindi vuol dire tutti i negozi pubblici chiusi, fate la spesa, organizzatevi con le scorte, perché se chiudono tutto per almeno un mese, ve lo dico. Anche questo messaggio potrebbe aver contribuito alla grande fuga e soprattutto alla corsa all'accaparramento vissuta nei primi giorni dell'era del coronavirus. Supermercati presi d'assalto a Milano, scorte accumulate senza ragione, tanto che l'autrice di questo messaggio dovrà rispondere di procurato allarme davanti ai PM di Milano e rischia 3 mesi di carcere. Come lo rischia chi sui social ha diffuso notizie false su casi di contagio non veri, come è successo in Irpinia. La paura, dicevamo, è una divinità e proprio perché nei suoi confronti bisogna avere rispetto, timore e tremore, seminarla d'arte o sulla base di informazioni inesatte è giustamente un reato. Negli ultimi 2 o 3 giorni c'è stata la caccia quasi alla mascherina, al gel detergente, disinfettante per le mani. E poi si è passati a richiedere prodotti che aumentano il sistema, aumentano magari le difese immunitarie come vitamina C, acerola, echinacea, zinco, integratori quindi che stimolano il sistema immunitario. Quasi una psicosi è stata per le mascherine, soprattutto da sabato. Ci sono problemi di fornitura, a me sono arrivate per esempio una fornitura che avevo richiesto martedì, mi è arrivata stamattina intorno alle 13, neanche proprio mattina, e in meno di un'ora ho finito tutto. Nel racconto affidato a Rosanna Magnano di Massimo, direttore sanitario della farmacia di Piazzale Baracca a Milano, si possono ascoltare gli effetti concreti delle paure. E chi di noi in questi giorni, soprattutto al nord, non ha letto davanti alle farmacie cartelli mascherine esaurite? Proprio per questo c'è stato anche chi ha speculato sulle paure, appunto, e sulle richieste del mercato, facendo incetta di prodotti sanitari venduti poi a prezzi vertiginosi sulle piattaforme online. Ma anche questo è un reato. E anche su questo i PM milanesi Eugenio Fusco e Tiziana Siciliano stanno acquisendo atti con una promessa: punire gli sciacalli, perché in questo momento difficile, commentano, non si può speculare sulle paure. Allora, come mai porta la mascherina? Perché per sicurezza, perché ho sentito che è un po' pauroso per viaggiare tram, autobus, per quello. Ti ha fatto la spesa grossa come tanti milanesi? Sì. Che cosa ha comprato? Quello che serve da casa, tutti quello che ho portato. My name is Lisa, I'm from Russia, Moscow. I'm in Italy because it's now a fashion week. I'm a model, but this fashion week I don't work. I'm afraid of, because I know that it's like very fast in the air. Milano, also la grande Milano, si è riscoperta ad un certo punto vulnerabile, con la fuga degli abitanti verso l'esterno, con i locali dell'aperitivo chiusi prima del tramonto, con le scuole serrate, le università bloccate, i teatri fermi come i cinema, con le messe sospese, con il Duomo chiuso e la Scala ferma. La più dinamica, frenetica e internazionale delle città italiane si è ritrovata per qualche giorno bloccata dalle decisioni precauzionali del governo e poi dalle sue paure, quelle con cui in fondo la città di Alessandro Manzoni fa i conti fin dalle pagine della storia della colonna infame e tutta la cultura occidentale da molto prima. In questi giorni sono stati richiamati così tanto grandi classici che raccontano terribili epidemie e forti paure che le vendite, ad esempio, del romanzo di Albert Camus, La peste, sono schizzate in alto. Lasciamoci allora condurre con la voce di Giorgio Geranò, professore di letteratura greca all'Università di Trento, una voce già delle nostre mitiche storiacce, in un viaggio attraverso mito, storia e letteratura. Oggi più che mai varrebbe la pena di rileggere le pagine di un grande storico dell'antichità come Tucidide. Quello che succede in questi giorni col coronavirus è infatti già successo quasi 2500 anni fa ad Atene. Ovviamente la peste che sconvolse Atene nel 430 avanti Cristo e che provocò la morte anche del grande Pericle fu assai più letale della sindrome simile influenzale che oggi si diffonde nel mondo. Ma alcuni meccanismi psicologici, il senso di timore e di disorientamento, le paure spesso irrazionali, restano le stesse. Tucidide le racconta in modo esemplare. Anche allora il morbo arrivò da lontano, da terre remote. I primi casi erano avvenuti in Etiopia, poi il contagio si era diffuso in Egitto, in Libia, infine aveva raggiunto il porto ateniese del Pireo. Tucidide racconta la dedizione dei medici che stavano in prima fila a combattere l'epidemia e tra loro, a quel tempo ad Atene, c'era lo stesso Ippocrate, il padre della medicina. Ma Tucidide racconta anche le paure della gente comune, la confusione che nasceva dalla mancanza di certezze. È sempre andata così, il morbo invisibile, il contagio che si diffonde in maniera misteriosa e inarrestabile suscita da millenni un terrore che non sempre è razionale. Era così nell'antica Grecia, quando alle epidemie si attribuiva spesso un'origine sovrannaturale o addirittura le si interpretava come una punizione divina. Già nell'Iliade d'Omero è il caso della peste che Apollo invia agli Achei per punirli dell'offesa fatta a un suo sacerdote. Ma la storia si ripete anche per la peste di Milano, descritta da Manzoni nei Promessi Sposi, dove, non senza ironia, si raccontano anche le incertezze dei governanti che solo a gradi e con una certa confusione, come chi si risveglia da un profondo sonno, scrive Manzoni, iniziano a dare corso alle prescrizioni delle autorità sanitarie e a mettere in atto le quarantene prescritte. Anche allora, peraltro, tutti si misero a cercare il paziente zero, individuato, ci informa Manzoni, in un tale Pietro Antonio Lovato, soldato di Stanza Lecco. E come non pensare poi al racconto di Boccaccio sulla peste nera che afflisse l'Europa nel 1348. Anche allora il morbo si era originato probabilmente nel cuore dell'Asia e si era diffuso in Occidente attraverso le stazioni della Via della Seta. Le novelle del Necaberone di Boccaccio si immaginano narrate appunto da una brigata di giovani ritiratisi in campagna per fuggire al contagio. Un effetto collaterale della malattia, notava Boccaccio, fu l'improvviso moltiplicarsi del numero degli esperti di medicina. Il numero degli scienziati, scrive Boccaccio, così di femmine come d'uomini, senza avere alcuna dottrina di medicina, era divenuto grandissimo. Come nella Firenze del 300, pure noi, da un giorno all'altro, siamo diventati tutti virologi. anche questa ormai è un'epidemia. Ci ha fatto riprendere in mano capolavori della letteratura, la grande paura di questi giorni, e chissà che forse non abbiano aiutato anche chi si è trovato bloccato nei comuni isolati dell'Odigiano o in quelli dell'altro focolaio veneto o ancora negli alberghi in quarantena di Palermo e Alassio o sulla nave da crociera respinta in cerca di un porto. La letteratura, ma anche la radio, capace di superare ogni barriera, anche quella della paura, capace di ricreare una comunità come è avvenuto con Radio Zona Rossa di Codogno. Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In Viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. I racconti di storiacce. Bene, riprendiamo allora la linea dopo lo stacchetto musicale con Fabio Bergamaschi. Ciao a tutti da Bergamaschi voi. Bergamaschi a Bergamaschi, Gianpaolo e Fabio, quindi ci siamo. Ci siamo sempre lì. Allora, le ultimissime di là, visto che tu avevi recuperato le notizie. Allora, ricordiamo i supermercati, gli orari d'apertura dei supermercati, ricordiamolo ancora, anche ieri notizia. Potenza della radio, anche nell'era dei social, dei diari dalla quarantena, anche nell'era di un'autentica infodemia, circolazione cioè di una quantità eccessiva di informazioni talvolta non vagliate, come recita la Treccani, che rendono difficile orientarsi. Alla fine la radio riesce più di molti altri media a ricreare invece una comunità, a superare la barriera dell'isolamento dei comuni zona rossa, a varcare le mura delle case dove in tanti stanno facendo passare i famosi 14 giorni del temuto contagio, a vincere anche le valanghe di bufale circolate sui social. Dalle 8.30 alle 17.00, poi faccio seguito a una chiamata di un'ascoltatrice per i poliambulatori. Allora, attualmente c'è tutto. La radio, e nello specifico Radio Zona Rossa Codogno, ha fatto rincontrare con le voci le persone che da giorni non si salutavano più nella piazza, veicolando vicinanza insieme ad informazioni pratiche. Perché poi è questo ciò che soprattutto all'inizio è mancato a chi si trova ora dall'altra parte della barriera. A Codogno i supermercati oggi erano tutti chiusi. C'erano 3 supermercati aperti a Casal Busterlengo, che è la città più vicina a noi, una città grossa, con 3 supermercati aperti. In uno di questi stavano facendo entrare le persone in modo parcellizzato, a gruppi di 50, creando quindi una certa coda all'esterno. Ed erano in 3 a funzionare. Mentre a Codogno i supermercati per ora sono tutti chiusi. La notizia di adesso è che una persona di Codogno si è recata in un supermercato a Pizzighettone, fuori dall'area rossa, diciamo così, ed è stata riconosciuta, e questo ha generato un piccolo tafferuglio, e quindi questo ha generato un po' la classica caccia all'untore che ci ricorda Manzoni. Non siamo tutti ammalati, ecco, tranquillizziamo le persone che non siamo tutti ammalati, non siamo tutti portatori di questo virus. Nei giorni del grande allarme è significativo come in realtà i messaggi più rassicuranti arrivassero proprio dal cuore dell'emergenza, dai centri del contagio. Messaggi come questo, pur senza sminuire l'eccezionalità di una situazione che evoca appunto ben altre epoche, ma non può essere che questo lo spirito rassicurante, anche come ha ripetuto il sindaco di Codogno Francesco Passerini in questi giorni ai microfoni pure di Effetto Notte. Penso che sia giusto l'approccio, sia quello di dover essere tranquilli comunque, nessun panico, nessuna ansia, anche perché, ribadisco, vista la situazione emergenziale, diciamo quelli che sono i beni di prima necessità, i generi di prima necessità, i medicinali e quant'altro sono approvvigionati regolarmente, quindi abbiamo messo in campo anche i volontari della Protezione Civile per cercare di effettuare quelli che sono i servizi a domicilio per le figure fragili che possono essere anziani, disabili, ma sicura, penso che dopo magari un pochettino di spaesamento, spaesatezza iniziale, pian piano si sta trovando un equilibrio in questa situazione che sicuramente di normale ha poco, però la responsabilità, la maturità che stanno dimostrando tutti i concittadini, oltre ai miei concittadini, anche quelli di tutta la zona rossa, penso che sia veramente di grande maturità, proprio perché si è capito che quelli che sono tutta una serie di consigli, di metodi da mettere in campo vanno a tutela della loro, ma anche della salute degli altri. Allo stesso modo, così arriva una voce da un abitante di Vo Euganeo in isolamento nel Padovano. Amici, qui a Vo vi posso assolutamente garantire che la situazione è tranquilla, massima serenità, non c'è bisogno di diffondere nessun tipo di panico, ok? Poi, come tutte le cose, specialmente di questa portata, c'è bisogno di un po' di rodaggio, penso sia normale, no? Però state tranquilli, ve lo posso garantire assolutamente al 100%. E quello che si dice in giro, ma lasciate che dicano, cioè, la verità sta qui. Bisognerebbe che video come i miei, diciamo, li facessero più spesso tutti quanti. Le polemiche lasciamole stare, non è il momento adesso di polemizzare. Ci sarà il modo per farci sentire sicuramente al momento opportuno. Intanto auguro a tutti voi una buonissima serata. Chissà cosa ci lascerà questa epidemia, la prima dell'era dei social. Chissà come cambieranno anche le nostre percezioni e se modificherà anche il nostro modo di raccontare. Aspetto niente affatto secondario di questa emergenza su molti fronti, a cominciare da quelli economici, viste le chiusure nei confronti degli italiani in molti paesi, viste le cancellazioni di tanti eventi, visti gli effetti non ancora quantificabili che le misure straordinarie hanno provocato inevitabilmente ad un'area che è poi il motore economico d'Italia. E per questo il ministro dell'economia Gualtieri conferma a 24 mattino misure di sostegno non solo per le zone rosse ma anche per tutti i settori, a cominciare dal turismo, danneggiati in tutta Italia proprio per gli effetti della paura. Da un lato dare il necessario sostegno alle imprese, ai lavoratori, ai professionisti della zona rossa, ma anche per varare misure per tutti quei settori che sono direttamente colpiti dagli effetti economici del coronavirus anche al di fuori dei territori della zona rossa. Penso per esempio al settore del turismo, ma non solo. Perché in fondo anche i mercati, come gli uomini, possono aver paura e le conseguenze delle loro paure provocano però danni a volte difficili da colmare. Allora, dopo una settimana della prima epidemia della nostra era, forse bisogna ripetersi le parole di Martin Luther King. Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire e non trovò nessuno. Così terminata la più difficile delle settimane della sua storia recente, Milano e con essa tutta l'Italia prova lentamente a riaprire, dal Duomo e dai luoghi della cultura, mentre da un account all'altro sui social rimbalza il video della città con i suoi grattacieli, la sua arte, la sua frenesia, la sua laboriosità, i suoi aperitivi. Milano non ha paura, Milano non si ferma. Racconti di storiacce di Raffaella Calandra. In regia Carmelo Lauricella. Per riascoltare questa e tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Seguiteci e scriveteci anche con vostre segnalazioni e commenti sulla pagina Facebook di Storiacce o via mail. Ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account Raff Calandra. A domenica prossima.